y yo, y en el lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Lulù ritrasse l'alluce dallo spacco del lenzuolo. Agitò un poco i piedi per il piacere di sentirsi sveglia vicino a quella carne, molle e prigioniera. Udì un gorgoglio. Una pancia che brontola mi dà fastidio. Non posso mai sapere se è la sua o la mia pancia. Chiusi gli occhi. Sono dei liquidi che fanno glu glu dentro, certi fasci di condotti molli, tutti quanti ne hanno. Egli mi ama. Non ama le mie budella. Se gli facessero vedere la mia appendice in un boccale, non la riconoscerebbe. Non fa che smaneggiarmi, ma se gli mettessero il boccale in mano, non sentirebbe niente dentro di sé. Non penserebbe roba sua. Bisognerebbe che si potesse amare tutto di una persona, l'esofago, il fegato e gli intestini. Forse non li amiamo per mancanza d'abitudine. Se li vedessimo come si vedono le mani e le braccia, forse li ameremmo. Il fisiologico e anche patologico raccapriccio per il corpo di una donna frigida, Lulù, protagonista di un racconto di Jean-Paul Sartre tratto da Il Muro, una raccolta di racconti claustrofobici e soffocanti del 1939. La donna si domanda come mai il suo uomo provi attrazione e desiderio, quasi carnale voracità per alcune appendici del suo corpo, per il suo sedere, per le sue parti esterne, e non provi la stessa cosa per le sue viscere. Pone in una per lei incommensurabile gerarchia di dignità o di attrazione per gli organi fisici del proprio corpo un dilemma, diciamo, cosa gli piacerà del corpo, perché lei ha una sorta di fobia per il corpo. Non capisce che il corpo è un meraviglioso sistema di ricezione, di controllo, di osservazione del mondo che ci circonda. Questa mattina parliamo della carne. Abbiamo parlato degli odori del corpo, abbiamo parlato dei peli, abbiamo parlato delle schifezze e della possibilità contemporanea, anzi dell'ossessione contemporanea per cercare di tarpare al corpo le sue naturali segnalazioni del fatto che sia vivo, del fatto che sia in salute, del fatto che attraverso quel corpo passino delle passioni che eccitano nervi, che eccitano meccanismi, metabolismi, ghiandole, secrezioni, muscoli lisci, muscoli volontari, involontari. Insomma, il corpo certifica l'esistenza di una persona. Il corpo oggi attraversa una paradossale attenzione, su questo vorrei che ognuno attingesse ascoltandomi la propria esperienza personale. Vi sentite un corpo addosso in questo momento? Cos'è il vostro corpo? Voi dove siete? Siete dentro il vostro corpo? Siete il vostro corpo? Voi siete altro rispetto al vostro corpo? Se pensate a una persona a voi caro, a voi sgradevole, cosa immaginate? Il corpo? Forse la voce, ma la voce è comunque qualcosa di corporale, perché l'ascoltiamo attraverso un organo fisico, viene emessa attraverso il muoversi e il passare dell'aria attraverso degli organi fisici. Il corpo oggi viene idolatrato, sembra che il corpo sia al centro di tutte le attenzioni, è tanto che il corpo viene confuso con la concupiscenza per il corpo, la carnalità viene confusa con la passione sessuale, è una persona molto carnale. Non significa una persona che semplicemente ha una perfetta, disincantata, placida e piacevole maniera di rapportarsi con il proprio e l'altrui corpo. È una persona malata, è una persona eccessivamente sensuale, una persona che indulge troppo nei piaceri della carne. E quanto abbiamo sentito parlare dei piaceri della carne come qualcosa di riprovevole. Ma allo stesso tempo il corpo che è apparentemente così glorificato è, secondo me, questa è la mia ipotesi, fortemente vilipeso. Perché il corpo oggi deve rispondere rispondere a modelli che non sono modelli corporei, sono modelli costruiti artificialmente. Non è detto che l'artificiale sia da disprezzare rispetto al naturale, l'artificiale ha delle sue ragioni di esistere comunque. Ma oggi sappiamo che il corpo è qualcosa che possiamo riprogettare continuamente. Il corpo può essere non soltanto desiderato, ma può rispondere ai nostri desideri, può conformarsi, modificarsi, diventare qualcos'altro rispetto a quello che noi vogliamo. 800 24 00 24, noi e il nostro corpo. Mi sento un paria, perché io penso che mai mi rifarei il seno, il naso, insomma, penso che i difetti sono quelli che rendono unica una persona. Anche se comincia a essere cedevole il fisico, io insomma comincio a mollarci un po' di qua, un po' di là, però ritengo che poi riempirsi di plastica sia veramente una tristezza, ma perché non rifarsi il cervello allora? Io parlo da operata, tra virgolette, di liposuzione moltissimi anni fa. Non credo che la protesi emozionale possa essere considerata negativamente quando risolve un problema psicologico, di emotività di una persona. Quando invece è esagerato, perché una si vuole trasformarsi, che ha 70 anni e vuole dimostrarne 20, e allora si rifà tutta completamente, quello sì è un problema. (800) 24 00 24, noi e il nostro corpo. Ascoltate in questo momento il vostro corpo, ditemi che segnali vi manda, guardatelo, vi fa orrore, come dice la protagonista del racconto che ho letto poco fa, dice: ma come mai la persona ama una mano, desidera un seno, desidera una bocca, e non vale la stessa cosa per l'esofago, per gli intestini, per le budella? Per la persona che non attribuisce significati simbolici, significati concreti, non attribuisce sensazioni piacevoli, spiacevoli, comunque segnali al corpo, il corpo è un ammasso di organi. Non si capisce perché a questo punto debba avere una sua particolare attrattiva, ma è un rapporto sano con il corpo questo. Del corpo ci dimentichiamo, o del corpo ci ricordiamo con ossessione. Oggi esiste una liturgia quotidiana nella cura del proprio corpo, eccessiva per taluni, segno e sintomo di civiltà per altri, grande oggetto di business e quindi di necessità di commercializzare e trasformare alcune tendenze in desideri profondi. Il corpo va modificato, il corpo va fermato, tappato nelle proprie traspirazioni, il corpo va coperto di odori naturali, abbiamo già detto, le normali segnalazioni del corpo vanno modificate come un disturbatore che non permette una normale trasmissione. Beh, di questi temi avrei potuto parlarne con un chirurgo plastico, visto l'argomento, la modificazione corporea ormai è così di uso comune, chiunque sa che può modificare il proprio corpo, non fa più scandalo. Chiunque sa se pezzi del corpo si rompono, si guastano o non sono efficienti, possono essere tranquillamente sostituiti. Quindi avrei potuto parlarne con un medico, con uno psichiatra. Invece ne parlo con un filosofo della scienza. Lo avete già sentito a questi microfoni, è Stefano Moriggi. Stefano, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Mi interessa proprio l'approccio filosofico al tema del corpo, perché non se ne esce se non con una lettura che, secondo me, lo consideri in questo tipo di complessità. Stefano, oggi il corpo, abbiamo detto, non risponde più a regole naturali. Molti si stracciano le vesti e si vanno subito a pentire della propria colpa se viene nominato la non naturalità. Ma è un delitto così grande considerare il corpo come qualcosa di modificabile? Credo assolutamente di no. Il problema della natura, dell'artificio, si affonda nella notte dei tempi, andrà profondamente ripensato. E in questi momenti di irruzione dell'artificiale nel cosiddetto naturale è un'occasione privilegiata, una prospettiva forse inedita che deve consentire un profondo spunto di riflessione. L'irruzione della plastica, del silicone, come dicevi tu, in qualche senso ci cambia la percezione del nostro corpo e quindi anche del nostro essere, perché in qualche modo è il trionfo della reversibilità nel tempo. È una sorta di continua resurrezione in vita rispetto alla paura più grande. Si pensa che questo che dici tu è stato anticipato da certi correnti d'arte d'avanguardia, tutti gli artisti di body art negli anni 70, ho citato più volte Stellar, Corlan, questi artisti che modificavano anche in maniera cruenta il proprio corpo, si inserivano arti artificiali, ingerivano meccanismi, facevano operazioni di chirurgia plastica come se fossero momenti artistici performativi, dicevano all'uomo della contemporaneità, attento, il corpo è obsoleto per le sfide che ti sta ponendo il tuo tempo, quindi devi cambiarlo. Ma ancora, torna indietro di 10 anni, quando Andy Warhol espone le scatole di Brillo Box, ti sta dicendo che l'arte ha perso una delle caratteristiche per cui era riconosciuta come arte, cioè l'unicità e quindi l'originalità dell'opera del genio. È facile trasformarlo nell'unicità e nell'originalità del corpo di ciascuno di noi. Siamo forse destinati a diventare scatole come quelle esibite da Andy Warhol? Maria Cristina, buongiorno. Lei sente il suo corpo come una scatola, quindi sto dicendo quello che, seguendo quello che dice Morigi, se Ma lo sente qualcosa di diverso da lei. Dunque, in un certo senso sì, una scatola. In alcuni momenti della mia vita mi sono sentita come prigioniera dentro una scatola da cui guardavo fuori, ma una scatola che in fondo non ha una grossissima importanza, perché io mi sento qualcosa di diverso, non mi sentirei mai di identificarmi con il mio corpo. Ho la precisa sensazione, la netta percezione di essere qualcosa di completamente diverso. Ecco, ma questa percezione, e quello è un contenitore. Sì, questa percezione, questa sensazione, il guardare dallo spioncino dentro la scatola che la contiene, in realtà è usare gli organi del suo corpo per buttare l'occhio, vede, come non posso fare a meno di citare un pezzo del suo corpo all'esterno. Quindi il certo. corpo gli dà informazioni del mondo. Lei adesso mi ascolta certo. perché ha delle orecchie, mi immagina probabilmente o sente la voce o segue il filo delle sue sensazioni, ma la prima sensazione è il vibrare della voce dentro le sue orecchie. Certo, certo, ma è uno, in sostanza è uno strumento che serve ad alimentare qualcos'altro però. Ma io sento come se fosse una sottile vena quasi di disprezzo e mortificazione per questo corpo, qualcosa da cui bisogna allontanarsi. Lei sente molto staccata, come qualcosa radicalmente scisso dal suo corpo? Beh, proprio radicalmente magari no, perché sarebbe un controsenso, insomma, diciamo che è molto combattuta la cosa, che anch'io mi rendo conto che effettivamente dovrei sentirmi il mio corpo. In realtà, proprio facendo riferimento... A lei piace mangiare? Come? Lei piace mangiare? Apprezza sì, il cibo? Sì. Quindi, come sì. vede, compiace il suo corpo con una piacevole alimentazione, che è un piacere, una gioia, un tripudio. Certo. Quindi non certo. vuole male, chi vuole male al proprio corpo comincia a non no, mangiare. No, ma io non voglio male al mio corpo. È che in un momento in cui il corpo ha assunto un valore, non saprei come dire, è quasi è totale l'investimento che si fa sul corpo, quindi sull'aspetto esteriore, sul fatto che non si vuole invecchiare, che non si vuole morire, che bisogna modificarlo per mantenerlo al passo con la giovinezza che sentiamo dentro di noi. Io non lo so, in qualche modo sento dentro di me qualcosa che si ribella e dico io sono io, e anche se sono magari vecchia, se non sono al massimo. Ah, ecco, lei dice questo perché si trova in una fase in cui non considera il suo corpo più adeguato alla sfida di meraviglia, di tonicità che oggi pone il tempo. Sì, probabilmente. Ah, beh, ma allora è un semplice discorso di vuole sentirsi dire ma no, sei ancora bella, è ancora piacevole. Se qualcuno apprezzasse il suo corpo, si accorgerebbe di avere un corpo. No, indipendentemente da quello. Indipendentemente ormai ha tagliato i fili, è una marionetta, come Pinocchio quando diventa bambino, vede il burattino sulla sedia e dice ah, quant'ero ridicolo. Quindi lei è già praticamente risorta dal suo corpo. Forse sì, non lo so. Vabbè, auguri Rossello, ognuno fa, mica dico, non la prendo a ridere la cosa. Capisco che esista anche questo tipo di sensazione. Stefano Morigi, vuole dire qualcosa? Sì, è interessante quello che dice la signora, perché sembra la traduzione in concreto del brano che leggevi tu di Sartre. In realtà la signora dice io sono io al di là del mio corpo che percepisco sempre più come una scatola. Ma è ovvio che questo suo ragionamento non è che una grande riflessione sul corpo da cui non può uscire. E in realtà è proprio così, perché non c'è consapevolezza di sé senza corpo, non c'è anima senza corpo. Chi pensa di far questo si condanna, come la protagonista di Sartre, a essere più o meno bella, ma sicuramente senza anima. Rossella, buongiorno. Mi sembra che la sua sia una situazione opposta, se non ho letto male la scheda, rispetto alla sua collega ascoltatrice. Sì, dunque, io sono del parere che il cervello sia molto importante rispetto al corpo, però... Beh, il cervello pure fa parte del corpo, eh. Ecco, però se non... Cioè, il cervello è cervelletto, quando lo mette in padella che lo frigge, è carne anche quello. Sì, certo. Quello che volevo dire era che abbiamo, secondo me, il dovere di mantenerci in buona salute fisicamente, proprio perché questo cervello che ci serve a vivere ci serve a vivere il più a lungo possibile e il meglio possibile. Le posso fare una domanda, Rossella? Mi viene in mente sempre la protagonista di Sartre, diciamo, perché non apprezza le mie budella? Per paradosso, perché lei è sessuofobica, frigida, non vuole solamente essere apprezzata per le parti piacevoli del proprio corpo. Ecco, perché noi consideriamo il cervello come qualcosa di possibile. Sento dire sempre più spesso le mie amiche: io degli uomini apprezzo il cervello, sono amante dei cervelli. In fondo, messi su un piatto del macellaio, il cervello equivale al muscolo, equivale alla coratella, a un'altra cosa. Perché non dire: questo persona mi piace per i suoi pettorali, per i suoi bicipiti, per le sue natiche, per i suoi polpacci. Abbiamo sempre una sorta di riserva di citare parti del corpo che sono legate a significati oscuri o sessuali. Sì, aggiungerei che non diciamo mai ti voglio bene con tutto il fegato, ma ti voglio bene con tutto il cuore. Sì, vabbè, perché sono collocazioni simboliche ormai tradizionali, chiaro. Ecco, infatti dire ti voglio bene con tutti i polmoni o con tutto il fegato fa un altro effetto. Con tutti, no? I polmoni a me piacerebbe, perché è una cosa legata al respiro, sì, legata alla vita. Anche a me piacerebbe, però non è nell'uso comune, quindi... Quindi lei comunque considera questo vecchio corpaccione ancora qualche soddisfazione può darcela? Perché trattarlo male o perché considerarlo come un'automobile a cui si possono cambiare i pezzi? Certo, credo che si debba avere la cura massima, naturalmente non parlo di... liposuzioni, di cose di questo genere. Quello poi, chi vuol farle, non voglio porre limiti. Certo, no, penso che si debba avere rispetto di questa scatola, come la chiamava prima la signora, ma sul termine non sarei d'accordo, su questo involucro, su questo che è importantissimo, la pelle è molto importante, no? Quindi tutto il resto, ma che ci permette di vivere il più a lungo possibile e il meglio possibile. Grazie signora. Stefano, mi pongo una domanda, ma perché noi vogliamo sempre porre questo fatto che il corpo è un contenitore? Noi ci sentiamo di esistere per il nostro corpo. Io onestamente, avendo un grande rispetto e una grande e maniacale cura per i miei inferni o paradisi interiori, io sono il mio corpo, non lo sento una scatola. Sento qualcosa che avvolge il mio corpo, che trascende il corpo, ma io mi sento essere il mio corpo. Le telefonate che abbiamo sentito fin qui ci ripropongono quello che potremmo definire a distanza di anni ancora l'equivoco di Cartesio. Penso dunque sono, ma sono solo una cosa pensante. E allora ci innamoriamo del cervello, che è il corrispettivo fisiologico di questa cosa pensante, e allora si istituisce questa gerarchia di organi che è uno svilimento degli organi inferiori. Non posso dire ti amo col fegato, ti amo col cuore è tanto sbagliato quanto dire ti amo col fegato, perché in realtà non amiamo affatto col cuore. Semmai amiamo con tutti gli organi insieme, ma questa ricerca dell'anima, che dall'altra parte è uno svilimento del corpo, insisto, è pericolosa, perché come dici tu, noi in realtà amiamo, ci relazioniamo con il corpo e con i corpi degli altri. Immaginare e rincorrere un'anima che può essere tanto più astratta quanto più concreta quanto ritrovata nel cervello è un equivoco, l'equivoco di Cartesio, che ci condannerà a essere senza anima. Questa mattina sto notando che all'800240024, e ne sono lusingato e follemente felice, chiamano soltanto donne. Parliamo di corpo, le vere conoscitrici e le vere persone che hanno qualcosa a dire del corpo oggi sono convinto che siano le donne. Luisa, buongiorno. Ciao Gianluca, complimenti per la trasmissione. Ecco, non mi cadere felice con queste battute. No, sono molto felice di sentirti, è la prima volta che intervengo, volevo solo dire questo. Con cosa mi senti? Prego? Con cosa mi senti? Con cellulare. Ecco, hai parlato già della tua protesi, del tuo prolungamento. Vedi? Esattamente, il mio prolungamento, abbiamo tutti dei prolungamenti. È una protesi emotiva però, che ti permette di sentire anche a livello profondo. Certamente. Io sono terrorizzata da tutta questa società che si taglia un pezzo di qua, che tu sottolinei molto spesso nelle tue anche passate trasmissioni. Io osservo, non sono terrorizzato da nulla, se non dall'ignoranza. Beh, è tantissimo. Comunque, ecco, tagliando, mettendo, sono tutte parti estranee a noi e logicamente non le possiamo vivere perché non sono integrate. E conseguentemente, giustamente, questo corpo sente con tutto noi stessi e anche con le protesi di questo telefonino che io sto telefonando. Noi siamo... Ma le protesi danno una grande soddisfazione, non ci sarebbe un mercato così vivo di protesi che anche ricostruiscono apparati intimi se non fosse un valore forte che si dà alla protesi. La protesi in realtà per alcuni è il feticcio, per alcuni è il succedaneo, è ciò che non c'è, ciò che dovrebbe essere. Comunque un oggetto di riflessione, Stefano. Assolutamente sì, quello che stavamo dicendo prima, quando tu con le protesi non aggiungi solamente un corpo esterno, in realtà stai riscrivendo il tuo corpo e le modalità di relazione con gli altri corpi, quindi stai riscrivendo la tua anima. È questo che continuo a dire e a ripetere. In realtà quando tocchiamo il corpo stiamo ritoccando la nostra anima, che si definisce nelle relazioni tra corpi. Questo è il punto. Allora Luisa, una battuta conclusiva prima delle informazioni sulla borsa, e Giulia la pregherei di attendere, la chiamerò immediatamente dopo la pausa. Luisa? Cercherò di integrare queste protesi, d'accordo? Cercherà di integrarle in che senso? Nella mia anima, come ha detto Stefano. Sì, però stiamo parlando di corpo, perché c'è sempre questa resistenza a definire, a mettere, a considerare anche il corpo? No, il corpo è fondamentale, con quello che noi sappiamo chi siamo, cioè attraverso la nostra fisicità noi creiamo o cambiamo la nostra anima, andiamo a interagire a livello profondo, solo attraverso la nostra fisicità succede questo. Quindi non è la scatola e non è tantomeno la prigione dentro la quale noi guardiamo da uno spioncino, che sono i nostri occhi, il mondo intorno, che non ci tocca, non ci sfiora, perché sono soltanto pareti, quando in realtà dovrebbero essere pareti sensibili, e qui mi fermo, potrei andare molto oltre. Melog 2.0. Stiamo parlando del corpo, dove siamo noi dentro il nostro corpo. Il nostro corpo è ciò che noi siamo, tout court. O esiste qualcosa che sentiamo animare il nostro corpo, ma in fondo noi ci sentiamo il nostro corpo, guardiamo le nostre mani, diciamo io sono questo. Si riconoscono le persone a noi care o a noi sgradite attraverso il loro corpo. Chi è quella persona che penso in quel momento? È quel corpo che penso in quel momento. 800240024, stiamo parlando di corpo, stiamo parlando di vilipendio del corpo, di sprezzo del corpo, persone che hanno una tale difficoltà a accettare il corpo che dicono per me lo sento come una prigione. Altre persone che invece considerano il corpo come il più straordinario ricettore di sensazioni dal mondo esterno. Il corpo alimenta l'anima di informazioni che vengono dal mondo, il corpo annusa, sente, gusta, tocca, è toccato, è sollecitato, è circoscritto, è in tutta una serie di sensazioni che si hanno in varie parti del corpo più o meno sensibili, attraverso quali noi ci facciamo un'idea del mondo che ci circonda. 800240024, ne sto parlando con un amico filosofo della scienza, Stefano Morigi. Stefano, tutto quello che stiamo dicendo dovrebbe anche spiegare, o perlomeno rendere inspiegabile, il culto del corpo. Ci sono delle fasi in cui il corpo diventa qualcosa che in sé trasmette così fortemente i valori di colui che l'ha abitato per alcuni tempi, che viene anche dopo il decesso di questa persona conservato come elemento portatore di grazia. Sto parlando delle reliquie. C'è un autore che noi conosciamo bene perché è un culto condiviso, che è Piero Camporesi, che anni fa scrisse La carne impassibile. Analizzava il corpo dei santi, soprattutto nel Medioevo, ma fino anche al 400, al 500, c'era un culto fortissimo delle reliquie. Quando moriva un personaggio in odore di santità, la prima cosa che si faceva era lo smembramento del proprio corpo, perché la grazia che ha abitato quel corpo potesse essere equamente distribuita tra coloro che appunto erano fedeli. Sai, hai detto bene tu, prima introducendo il concetto di prigione. Il concetto di prigione e corpo hanno una lunga tradizione. Platone gioca sull'equivocità semantica del termine greco. In greco il corpo si dice soma, ma in prigione si dice sema. Cioè il corpo sarebbe quella prigione che trattiene l'anima che cerca di liberarsene. Il corpo del santo in qualche modo... Tutta la mistica vede, esatto, il corpo come una prigione da cui fuggire. Il corpo del santo, nella sua eccezionalità, in qualche senso tiene insieme questi due poli, di prigione e di libertà. Il corpo del santo, come Camporesi ci spiega, è il segno che apre a una trascendenza che va oltre la fisicità stessa, ma dentro la fisicità, dentro la sua prigione. È l'eccezione fisica che regola il mondo attraverso un significato che è metafisico. È lo straordinario che dà legge all'ordinario. Quindi la conservazione di quella fisicità, la reliquia, è il modo per custodire un significato che la trascende, ma non può trascenderla se non nell'immanenza di un corpo. E questo è importante perché ci riporta a quello che stavamo dicendo prima, è il problema dell'unicità. La reliquia è quella lì, è quel corpo lì, non può essere altro, perché se tu lo riproduci in qualche modo mistifichi il senso di cui è custode e prigione al tempo stesso. Ecco, io ho un'esperienza personale che racconterò, l'ho già raccontata altre volte, mi sembra, anche a questo microfono. Quando ci fu quel grande rituale collettivo di fede e di mediaticità di televisione, che fu l'esposizione della salma di Papa Giovanni Paolo II davanti a San Pietro, andai come tanti altri giornalisti per vedere quello che accadeva. Folle immense di pellegrini a tutto il mondo venivano e passavano giornate per vedere la salma del Papa. Ma in realtà non guardavano tanto la salma del Papa quanto ne guardavano la riproduzione digitale nei mega schermi a Piazza San Pietro. Ma non si limitavano a guardarla, la fotografavano tutti con il loro cellulare, con la loro macchina digitale. Insomma, portavano a casa una reliquia digitale di un corpo digitalizzato che è molto contemporanea, come lettura. Camporesi parla di queste processioni medievali che andavano a inzuppare il fazzoletto nel liquame del corpo del santo, perché quel liquame era qualcosa di santo. Oggi, in un momento in cui il corpo è glorificato e considerato nella sua riproduzione digitale, anche il corpo del Papa, morto in odore di santità, aveva la sua possibilità di avere una reliquia digitale. Ma ti porrò un altro dilemma. Un anno fa circa ci fu un altro rituale televisivo e mistico allo stesso tempo, che fu la resumazione del corpo di San Pio, di Padre Pio. Fu trasmesso in diretta televisiva e questo corpo seguì una sorta di restaurazione propriamente moderna, divenne una reliquia connotata da quel segno di contemporaneità di cui stiamo parlando. La parte superiore del teschio era scheletrita, in parte scheletrita, i tessuti ci sono tutti, il mento perfetto. Il resto del corpo si è conservato bene, si vede benissimo il ginocchio, le mani, i mezzi guanti, le unghie, se Padre Pio mi permette, è come se fosse passato dal manicure. È molto probabile che sarà posta questa maschera di cera fatta arrivare da Londra, proprio dalla ditta che fornisce il Museo delle Cere, perché il viso, il volto di Padre Pio pare sia la cosa più deteriorata. Roma è una città piena di corpi santi. I primi anni venivo a Roma, mi piaceva andare a vedere il corpo della Beata Taigia Trastevere, il corpo di un altro vescovo che sta alla chiesa di Sant'Andrea a Corso Vittorio. Mi piacevano perché immaginavo che fossero corpi perfettamente conservati, erano belli, tutti imbellettati così. Poi mi raccontò un prete che in realtà erano ricoperti di cera. La cera era l'elemento che ricostruiva laddove la santità non era riuscita a mantenere il tessuto vivace. Ma nel caso di Padre Pio c'è stato qualcosa di estremamente nuovo e diverso. Hanno rivisto stamattina i devoti del santo 40 anni dopo la sua morte. Una sottile maschera di silicone ne protegge il volto, dove però colpisce la bella barba bianca che è proprio quella di Padre Pio. Disteso in una teca di cristallo, il saio marrone cucito dalle cappuccine del monastero di clausura di San Giovanni Rotondo, ma soprattutto il volto, con la sua folta barba bianca ancora incorrotta dopo 40 anni. È la maschera di silicone che ricopre il volto di San Pio ad attirare subito lo sguardo dei pellegrini arrivati in massa a San Giovanni Rotondo per venerarne le spoglie. Una maschera che permette di ritrovare ogni particolare del volto del frate da Pietrelcina e insieme ne addolcisce l'impatto con la morte. 800240024, stiamo parlando del corpo, dei suoi derivati e delle sue derive. Una di queste derive è appunto racchiusa una parola, silicone. Con pieno, profondo, totale e partecipato rispetto per tutte le manifestazioni di fede popolare, non possiamo fare a meno di notare, Stefano Moriggi, che il silicone è diventata la materia che certifica l'eternità. Vale per la signora, si fa le tette splendide granitiche in silicone, che si innesta il silicone sotto le labbra per vincere la sfida del tempo, vale per il corpo santo, che viene reso e certificato della sua santità proprio con quello che è la materia che oggi certifica la sfida all'eternità. Sai, nella traiettoria della chiacchierata di questa mattina possiamo notare un aspetto degno di riflessione. La chirurgia estetica non è solo cosa per vivi. E questa è una cosa su cui varrebbe la pena di riflettere. Anche i morti hanno bisogno di conservarsi e di conservarsi nel loro aspetto. Nel loro aspetto quello che si è fissato nella memoria. I vivi devono conservare una giovinezza, possibilmente sempre più fuori dal tempo, che minaccia non solo il corpo, ma attraverso il corpo anche l'identità. I morti, nella fattispecie dei morti santi, devono custodire nell'aspetto fisico la santità. Di nuovo, il problema è quello dell'unicità legato alla sfida della riproduzione tecnologica. È possibile una reliquia nel senso di quella fisicità che custodisce la santità nella misura in cui viene riprodotta? A me piace parlare di reliquie impossibili quando il silicone prende il posto dei materiali organici, e dentro questa specie di ossimoro si gioca la sfida di senso delle tecnologie e della nostra contemporaneità. Ma anche sensualità impossibili, anche sopravvivenze di giovinezze prolungate impossibili, nel caso più umano, della chirurgia ricostruttiva, degli interventi, su cui non prendiamo nessuna posizione denigratoria, Dio ce ne guardi, però bisogna seguire e sentire il senso del tempo. Giulia, buongiorno. Sì, sono qui. Ecco, mi scusi il tempo che ho atteso lungamente. No, non importa, ho ascoltato tanto. Senti, io mi sento completamente il mio corpo, cioè io sono il mio corpo e non vedo come uno potrebbe non sentirsi in questa maniera, perché noi viviamo attraverso il corpo, vediamo, sentiamo, tocchiamo tutte le emozioni. Posso chiederti quanti anni hai, Giulia, più o meno? 53. Ah beh, siamo coetanei. Ecco, siamo in un'età meravigliosa in cui ancora sembrano collimare la sensazione della propria esperienza, della propria gagliardia, del proprio aver capito molto del mondo, e un corpo che ancora dà delle soddisfazioni. Ma quello che temiamo in questo crinale della nostra vita è che a un certo punto queste due sensazioni non saranno più allineate. Il corpo seguirà sempre più una fase calante e invece la percezione di noi stessi magari si fortificherà sempre di più. Sì, ma guarda, se non ci si pensa troppo, secondo me il corpo ti viene dietro, perché se tu lo curi, diciamo, in maniera non esagerata, lo ami, ti risponde. Lo ami e lo fai amare, diciamoci la verità. Giulia, lo ami ma lo fai amare. Certo. Ma io non, perché non niente, più che, niente più che la sensazione di un altro corpo ci dà gratificazione e rassicurazione sul fatto che il nostro corpo ancora sia una valida espressione di noi stessi. Sì, ma poi non solo attraverso, diciamo, un compagno, una moglie o l'altro sesso, ma non so, non avete mai provato a prendere in braccio un neonato, sentire il profumo? Ma siamo arrivati al paradosso che abbiamo dato per plausibili anche gli oggetti inanimati come strumenti capaci di dare sensazioni, quindi figurati, certo, ogni cosa che sfiora il nostro corpo, dalla foglia rorida di rugiada alla corteccia d'albero, come diceva Alberoni, o non so chi altro, qualcosa del genere, dà delle sensazioni. Però diciamoci la verità, le vere intense sensazioni che ci danno sicurezza di avere ancora un corpo valido sono quelle di un altro corpo. La prima cosa che ho pensato anch'io quando mi sono fatta rifare il seno è stato proprio di lasciare una lettera in cui, in caso di morte, avrei voluto essere cremata, proprio per evitare che i posteri scoprissero: guarda la nonna che aveva le tette rifatte. Il problema, secondo me, non sarà il giorno della riesumazione, questo per quanto riguarda le protesi sintetiche, ma il giorno della resurrezione. Nel giorno della resurrezione della carne, la resurrezione dei corpi, risorgeranno per appunto i corpi e non la plastica. 800240024, parliamo di corpo, avete visto, siamo già arrivati al momento della trascendenza del corpo. No, ho parlato che il corpo vale in quanto fornitore di sensazioni, certificatore di vitalità. Io avevo citato Alberoni, abbraccio, forse sbagliando, mi ha ricordato Stefano Morigi che in studio che Romano Battaglia ha scritto un libro e comunque inseguiva questa passione di sentirsi al mondo e orientato nel mondo abbracciando gli alberi, ognuno ha le sue forme di autoconsapevolezza, insomma, quindi. E sentiamo Marco, buongiorno. Salve, senta, io... Ah, se pensavo che si stava automotosegando, ho sentito un rumore sinistro, cos'era? Pronto? Sì, la sento. Pronto? Sì, sentivo io non ho sentito nulla. Ah, vabbè. Prego. Niente, le volevo dire che secondo me il corpo è il limite che spinge l'anima a trascendere comunque. Cioè, è proprio la sensazione di limite del corpo che ti fa sentire un'anima. E non parlo nemmeno di... Cioè, quando parlo di corpo intendo anche il cervello. Cioè, io mi identifico più nelle sensazioni, come dire, profonde che nel ragionamento, nella sensazione superficiale, diciamo. Quindi lei persegue un'ascesi, quindi un esercizio per potersi liberare. No, io vivo comunemente, spiegavo a chi ha preso la mia telefonata che io il mio corpo lo considero come un cane, cioè io lo curo come un vestito. Cioè lo porta a fare la pipì la sera? Esattamente, cioè io lo sfrutto come un mezzo, ma non mi ci identifico. E per quanto riguarda quella signora che ha detto ma ti piace mangiare, io mi sono allenato a mangiare sempre le stesse cose, proprio per essere libero di fare delle spese minime. Cioè vuol fare un dispetto al corpo, non vuole gratificarlo? No, semplicemente se io ho da fare non posso mangiare, mi sono come dire, il corpo mi dà la sensazione di quando ho il limite, punto. Ma non ho la voglia di mangiare. È uno dei problemi per cui siamo umani, è chiaro che abbiamo dei limiti, essere limitati significa essere come Dio, può essere un punto d'arrivo auspicabile, ma la nostra natura fa sì che abbiamo una macchina che richiede carburante, richiede manutenzione, richiede cura, e in cambio ogni tanto ci dà qualche piccola soddisfazione che lei disprezza, ma per qualcuno sono ragioni di vita comunque. Disprezzo, la prendo cioè il corpo lo uso comunque come un mezzo, quindi lo rispetto in quanto mezzo. Allora, il corpo le dà piacere? Sì, però onestamente, cioè, quel piacere se non lo rielaboro all'interno di me è poca cosa, cioè sparisce subito. Qualsiasi tipo di piacere si prende in considerazione. Cioè, non mi ricordo chi lo diceva, però c'è uno scrittore famoso che diceva che dopo il coito ogni animale è solo. Beh, lo dicono tanti, lo dice dal mondo classico che dicono questa cosa qua. Non mi ricordavo. È triste, sì. Per cui, secondo me, la gioia vera è comunque quando tu prendi quella sensazione e gli dai un significato. Sì, cioè, quando stai con una persona che ami, per esempio. Sì, ma lei ha citato il coito. Il coito è l'atto più estremo e più esclusivo e più profondo della conoscenza del corpo. C'è un'infinità di possibilità, diciamo, di sentire il proprio corpo, se no attraverso la tristezza post-coitale che prende gli animali come prende gli uomini, taluni uomini. Sì, ed è in quella tristezza che ci si sente abbastanza distaccati dal corpo, cioè nel senso, se poi dentro non si prova qualcosa di più, si avverte. Guardi che c'è qualcuno ogni tanto, rarissimi casi, sempre più rari, che è anche contento dopo, è anche allegro, si fa anche una risata, però ognuno ha il suo punto di vista. Grazie Marco. Stefano, hai qualcosa da aggiungere? Sì, è sintomatico questa rilettura egoistica del coito, che è, se che no, poi ha citato, ha detto solo, non triste come è la citazione. Egoistica e solitaria, che va di pari passo con la tendenza dell'ascoltatore a isolare il cervello dal corpo, come se il cervello non fosse parte del nostro corpo e come se il cervello fosse la traduzione della nostra anima razionale. Ma anche le nostre emozioni partono e arrivano esattamente dalle parti più antiche, se vuoi, ma sempre quelle del nostro cervello. Quindi attenzione a isolare il cervello dal corpo, ci si trova soli anche nel coito alla fine. Sì, perché alla fine vedi che la mortificazione del corpo, malintendendo quelli che sono dei principi rispettabili di etica, di morale, di tenuta dei propri istinti, si riduce soltanto nella mortificazione dell'atto sessuale, quando il corpo è qualcosa di molto più complesso, secondo me. Però abbiamo, grazie a Dio, non lo volevamo, ma ci è venuto lui incontro, e quindi con piacere lo accogliamo, un medico. Ho detto questa mattina, questa è una trasmissione Affari con filosofi, ma un medico è anche filosofo. Roberto, buongiorno. Buongiorno, mi sente? Sì, lei ha sentito i nostri ultimi ascoltatori? Sì, ho sentito. Sono in macchina, per cui ho sentito comunque. E, niente, volevo semplicemente aggiungere che nel problema della cosiddetta separazione fra corpo ed anima, il vero problema, secondo me, è la psiche, intesa in senso classico. Nel senso che la psiche che risiede in un organo è modificabile dall'organo stesso ed è modificabile dalle alterazioni anche semplicemente biochimiche che avvengono all'interno del cervello, per cui anche si potrebbe anche pensare, qui c'è una scuola lunga anche di psichiatria a riguardo. Lei è psichiatra? Prego, no, non sono psichiatra. È un medico lei comunque? Sì, sono un medico, sì. Una domanda, lei ha visto morire molte persone probabilmente? Sì, ho visto alcune persone, certo, parecchie, sì. Un medico quando vede la vita che abbandona il corpo si rende conto, lo domando perché ne ho viste morire pochissime, sempre parenti, non ho questa sorta di familiarità con la vita che abbandona il corpo, è il momento in cui però ci si rende conto che ci sono due cose differenti e distaccate, il momento in cui un paziente muore. Certamente, è lì che ci si chiede, questa persona esiste ancora o non esisterà o non esiste più, certamente, questa è una domanda antichissima ed è forse la paura dell'umanità. Ma volevo finire il concetto nel dire che proprio questo organo, questo cervello, che contiene le emozioni e che contiene la persona, è modificabile dall'esterno ed è modificabile anche semplicemente su basi biochimiche. Pensiamo a tutte quelle alterazioni, a tutte quelle malattie, a tutti quei traumi, a tutti quei danni vascolari. Lì la persona cambia. Ma pensiamo anche ai feromoni, ai neurotrasmettitori, pensiamo a tutte le sensazioni che ci fanno cambiare punto di vista, atteggiamento nei confronti delle persone. Il problema è proprio questo, è lì il territorio di confine fra l'immanente e il trascendente, è questo organo di pochi etti, ma anche per tutti gli animali in senso lato, che contiene la persona, che non è la persona, ma che lo contiene, e la prigione della persona è questa. Stefano Morigi, grazie mille. Roberto, il medico ha collocato quello che l'umanità ha sempre chiamato anima nel cervello. Sì, a conferma di quello che diceva il dottore che ha appena parlato, mi consenti 5 secondi per riproporti lo stesso concetto? Siamo quasi in coda. Sì, senti cosa diceva un poeta che si chiamava Paul Valéry, molto attento a Cartesio, alla filosofia e alla scienza. Si dice che il pollice opponibile sia ciò che distingue in modo più netto l'uomo dalla scimmia. A questa nostra proprietà bisogna aggiungerne un'altra, quella di dividerci da noi stessi, la capacità di produrre l'antagonismo interiore. Abbiamo l'anima opponibile. Può darsi che l'io e il mi delle nostre espressioni riflessive siano come il pollice e l'indice di qualche mano di psiche, cioè dell'anima. Allora si spiegherebbero le parole comprendere e afferrare. Valeria, lascio lei la conclusione di un minuto. Lei ha praticamente l'anima opponibile, perché dice che la sua anima è completamente opposta al corpo. Esattamente. Io vivo ho elaborato questa constatazione, insomma, dopo anni, sono abbastanza serena e lucida nel portare avanti questo ragionamento e appunto mi riallaccio all'antagonismo. Ma lei dice ha un bel corpo, quindi ha una brutta anima. Non ho una brutta anima, credo di avere un'anima bella, profonda, ma sicuramente incompatibile con quello che la contiene, nel senso che il mio corpo meriterebbe un trattamento completamente diverso. Cioè, gratificante o mortificante? Meriterebbe, insomma, qualcosa che lo gratifichi di più. Io non riesco a valorizzarlo quanto meriterebbe. E questo perché deve porsi il problema come una colpa sua? Secondo me è colpa dell'umanità che la circonda, che non apprezza abbastanza il suo corpo. Viaggi molto, giri, si contamini, conosca altre persone, vedrà che anche la sua anima ne avrà dei benefici. Grazie Stefano Morigi, grazie a tutti. Grazie a domani. A te. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.